Mamma mia, voglio qui qua. Passa molto poco tempo a vedere un attimo. Io non ci arrivo lì. La bambina non parla di questo, non sono per scherzo. Bello, bueno, non puoi no, vedi. No, è che non sono con il lavoro, è che sei más o menos, però è uno che dice il viaggio, le conosce. No, è. Sono malito, malito, malito. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te vamos a ver. Te vamos a ver. Pero fresquito, fresquito, menos mal. Lo peor que fuera un día de calor también. Non da rivolto. Vai sulla Rai a vedere. E non è Rai. No, ma è normale. Rai 1, boh. Me, nulla sì, ma fatto. Tutti mi stanno allora, dicendo no, che è una cosa nulla impossibile. Guarda, nulla li faccio. E sono di media se ti. Allora normale puoi pegare il con la garganta e non è. Trattemi, tre va. Stava scherzando, lascia stare. Samarini, Chiama. Già che arrivo, non è il controllo di radio che ho cambiato microfono. Senti, un po' più compressa la modulazione con questo. E comunque già è comprensibile, dai. È comprensibile. Venga. Così presto si frequenza. Aspetta, quando schiacci, lascia qualche secondo, poi parli, se ti mangi qualche parola. Ok, cappa, ho appena messo adesso, prima ero sul 27555 facendo di ex, sono tornato adesso a vedere se c'era qualcuno. Andrà bene, niente, nel nuovo microfono che ho preso, ho un altro apparato, sto provando se va bene, e gli attacchi erano perfetti, meglio così. È quello che ho riverniciato, l'ho fatto nuovo. Ma no, già va bene. C'è poco QRM, è buono, hai anche tolto il QRM. Sì, mi devo prendere una ciabatta molto grande, mi devo prendere. Attaccarla qua con tassilli, fissa. Per questi dunque, 2, 4, 5, 6, 7, 13, sono poche. Ma io me la sono comprata da 12 attacchi, l'ho comprata. E c'è 12 attacchi davanti, 12 attacchi di lato e 12 attacchi dall'altro lato. Stai innescando, Riccardi, siete il fischio. Ti va meglio? Lascia la portante qualche secondo schiacciata, la senza parlare. Perfetto, così lascialo così. Ma avevo alzato, mi dimentico sempre di rimetterlo a posto il car quando ero in manda laterale. Quindi, stamattina hai preso di nuovo la carriola? Sì, stamattina ho preso la carriola e meno male non è successo niente, non ho graffiato niente. Li ho portati tutti, ho fatto tutto con carico, non c'era problema oggi. Meglio così, dai. Niente, però la ricezione, questo baracchino non è che mi piace più di tanto. No, dopo che rientra con l'altro. Non lo so, ma perché non si sente, cos'è che ti delude in ricezione? No, c'è una ricezione di quanto parlate che non è chiara perfetta, vabbè con baracchino così che vuole andare venduto franco sullo discorso, che l'ho fatto nuovo, l'ho rivigato, rivigiato, riuscito perfetto, poi ho comprato il microfono normale, cioè un microfono più amplificato da tavolo, e tutti gli attacchi sono perfetti adesso, infatti sto modulando, però come ricezione altoparlante no, è meglio l'altro, un baracchino. Si sente, infatti forse la modulazione è migliore quella che avevi prima, le altre volte, questa è come detto un po' più compressa, però va bene lo stesso. Però tenendo sempre fermo, capito, l'ho acceso a vedere. Posso dirti che sono soddisfatto per come è uscito, perché per carità, come me l'ha dato, l'ho tutto quando ho portato a ferro crudo proprio, tutto levigato, bello, lucidato. E poi ci ha dato due bande di spray, bello che... No, adesso sono contento, è tutto perfetto. Infatti stavo provando a vedere come andava poi l'incisione e la trasmissione. bene, tanto una parte in più, una parte in meno. Tu non hai trovato stazioni base da prendere? E io ne ho alternativa un altro, e adesso ne ho soltanto due stazioni base, capito? Veicolare non mi piace, faccio quello lì, lo do, c'è un altro veicolare, se riesco a darlo, e me ne prendo un'altra ancora. Un attimo, arrivo subito. Ok. E parai, no? Maro, sì, ma tu sai, mi chiedo tutta la chiave che pagava. C'è qualcuno sul 10? C'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? L'unico problema è che dava quella bolla e a me me l'ha venuto a 70, invece 70 invece che 78 mi ha fatto 8 euro di scopetta e te l'ha fatto 40. Beh, guarda, dirò pure che è andata anche una persona a comprarlo e io non sono neanche entrato a fusare, ho dato i soldi, 40 euro ha speso, gli ha lasciato 40 euro. Ma ormai tanto io non ho problema, ne ho due di MB più 5, ancora in scatola. Capo, già lo so. A me mi serviva, fatto da guarda se c'è qualche microfono, da tavolo, e me lo compri, mi ha comprato questo qua. Infatti poi mi sono ricordato, infatti dell'adesivo che c'è qualche molla, ma è piccolo, io l'ho schiacciato, non si vede più. Papà, è anche dietro il potenziometro, a sinistra, mi sembra che ce l'ha anche lì, un po' di bolle, anche con lì gli è schiacciata o no? Ehi, ma è poca roba, dai Riccardino, non voglio queste piccole sciocchezze. Papà, vabbè. Ehi, e comunque questo baracchino è troppo sordo, io lo cambio, adesso metto l'altro. Non mi azzecco. Dai Riccardi, io faccio con X, ci sentiamo. Ciao, sta bene. Yeah, ciao Tony, vabbè, poi c'è anche Roberto Valder, tanto non lo senti perché questo baracchino è sordo. Roberto, tu ci sei ancora? Ciao Belly Bay. Oh, tu lo senti a Roberto? Ehi, ciao Tonino, ciao Roberto, ciao Riccardo, detto. Ma da ieri notte fino adesso al baracchino eravate. Non credo che sia nemmeno umanamente possibile. Buongiorno a tutti, dai. Roberto io lo copio, Roberto mi copi? Marco da Sassari. Ma sei Roberto Tex? Ehi, ok, dai, ti saluti. Vabbè Ricca, come anda? Va bene Marco, un attimo arrivo subito, scusate, sono in Ferrari, mi chiamano sempre, arrivo subito. Oh Marco. Bibi, Tony. Come ascolti radio? Sto usando un altro baracchino e un altro microfono. Allora, di modulazione sei già meglio, perché io lamentavo, ti ricordi giorni scorsi, ti dicevo, Tony non è che puoi alzare la modulazione, allora, era come un po' bassina e non pulita, non pulita, la sentivo come leggermente satura, comunque così, non limpida, non cristallina, questa è già migliore, fammela sentire bene, fammi un passaggio. Ecco, sto usando un MB più 5 da tavolo, che ti posso dire, è un baracchino Mitra, un modello 78574, chiamato Franco del Sosso. Ehi, assente toni leggermente un po' come metallici, il tono a quanto l'hai messo? Nel mio caso, per le mie corde vocali, l'ho dovuto mettere a 2 il tono, cioè più cupo l'ho dovuto fare. Guarda, adesso l'ho messo a 2 più o meno. Dimmi com'è, 1, 2, 3, prova. Sì, oddio. Vabbè, limitatamente all'MB più 5, benino, c'è una risonanza, forse la capsula che fa una risonanza leggera, tipo tappo di bottiglia, mi un po', ma però rispetto a prima sei più capibile, ascolta il volume a quant'è del mic? Io sono al massimo. Anche quello dell'apparato, cioè più di tanto non spinge, ma è probabile che il collo di bottiglia sia come sempre il trimmer della M, la LC della M, capito? Allora, questo baracchino è talmente semplice che non c'è la M, è tutta una cosa diversa. Sì, cioè il mic gain esterno, però dentro potrebbe averlo. Aspetta, che apparato è detto, Tony? È la stazione fissa più o meno, Midland, però ci sono 12 volts. Modello 78574. Allora, lo smartphone non ce l'ho, l'ho lasciato, va bene, l'altra camera. E dopo me lo guardo, 78574, via. Quindi è una stazione un po' base, no? Un po' grandetta. Sì, Roger, è uguale a canali anche in SSB, AM, LSB, USB. Eia, bellino, poi mi ricordo la serie di quell'epoca. E quanti ce n'erano di apparati belli, grandetti, alcuni enormi, c'è spettacolari, roba anche americana che qua arriva raramente. E giustamente chi ce l'ha se li tiene stretti, tipo il DAC, quella è una cosa unica, poi sembra un linearone, sembra. Bene, bene, bene, ma stamattina non sono uscito, stasera vedo di rifarmi, eccetera, dai. E che dire, io sto sempre usando il solito baracchinetto, il 3009, 40 canali e il microfono di sedia, Tony. Ma ci va bene, perfetta, pulita 5. Sì, questo era, diciamo, la carrozzeria era messa male, ma male veramente, era tutta levigata, ha dato la mano di fondo, poi due mani di... ho fatto un grigio perla e ti dirò che è tornato nuovo. Ehi, ehi, bellina quella, quel video di ieri, allucinante. Quando ti mangiavo con la mascherina? Mangiavo o mangiava, ma non eri tu, no? Ma stai scherzando, ma cosa mi hai pigliato? No, vabbè, ma tu sei anche un po' non giovanissimo, diciamo, però no, potevi anche essere tu. Io non mi ricordo come eri fatto tu, Mitoni. Forse ti ho visto di sfuggita una volta nella vita, ma 35 anni fa. Guarda, io mi riporto sempre, anche se ho una certa età, non ho cambiato niente, sono sempre lo stesso, sono sempre belloccio per le donne. Tu sei che mi calmi nel Vittonino. È bello Vittonino, io il giorno che lo trovo. Vai, finita a casa, cosa fai tu? È finita, ricazzati. Luca, ti di lera, tutti noi che siamo un natalino, fate la brava, i bambini. Sono sempre belluccio, oh, grazie a Dio, le donne non mi mancano. Mia da te, cazzo, non ti mancano le donne, io sono pieno di uomini, non proprio un uomo. Dammelo a me. Ma sono Marco, 22 centimetri. Sei attaccato a culo. Tonino, aspetta, ti vuole salutare una persona. Tonino, sono Liu, sono quella delle tendine verdi, te lo ricordi? Liu, boh, non me lo ricordo. Non ti ricordi, ma le tendine verdi te le ricordi, via le mameli? Cavolo, non mi dica che c'è la madre di Marcolino. Prendi tu però, dai, glielo sei usato, prendi qua. Sì, ho detto che io ti ricordo benissimo. Adesso abbiamo cambiato, non abbiamo più le tendine verdi, ma abbiamo le normali serrande, perché siamo in un'altra via. E va bene, bei ricordi quelli dell'antica frequenza, con Paoletto, eccetera. Allora ci ricordava. Anzi, è strano che col coronavirus non siano aumentati i baracchini in modo da comunicare tra di noi tutti, capito? Ciao, ti saluto. Grazie, comunque buongiorno anche a lei, caspitina. No, ripeto, al tendine verde le fatto per farvi una ricettina e basta, dai, per lubrificare le tendine che vedevo verdi, tutto qua, niente di particolare. Comunque mi fa piacere sentire dopo tanto tempo, dai. Hai visto Tony, dopo secoli, ma non la stavi riconoscendo davvero? Eh no, perché Marconi, quanti anni sono passati? Un bel. Poi la voce cambia, capito? Lei sì, poi lei è più grande di te, almeno 10 in più, forse 15 anni. Ehi, non esagerare adesso, ma non sai quanti anni ho io? 60, io dico tra i 60 e i 65. 66. Lei, sì, 10 anni in più. Cavolo, sì. Ma sono passati anni da quando modulava a oggi. No, anche perché poi lei ha lasciato prima, alla fine poi il baracchino un po' me l'ha lasciato a me. Lei modulava ai tempi di Rosetta, di Monforte, ma poi è di quel palengo di Altalena, che mi pare l'avevi crepato importante per un periodo perché aveva risposto male. Sì, gli ho messo un anno di importante, un anno, perché mi ha rotto le palle. Dopo un anno esatto sono entrato che modulava con Rosetta e Renata, ho detto beh, Altalena, adesso puoi anche parlare. Cazzo, mi ha preso a parolacce, me ne ha detto tutti i colori, ho detto beh, ho capito, tu hai fatto correnti a vita perché non ci parli più. Poi la sera sono uscito, sono andato in macchina, a San Francesco, ho preso l'antenna e gliel'ho stracciata. Mamma, era un po' pungente Altalena, ogni tanto faceva la battutina pungente, ma a me non piaceva come carattere. Addirittura Renata modulava sempre con Rosetta, perché me la ricordo meno. Renata era in via Ma era tipo via Porcellana, via Risorgimento, può essere. Poi rilancio Luca e rilancio gli altri. Sì, via Porcellana, esatto, bravo. C'erano cinque figli, il marito Uranio, che lavorava al Ferrovie dello Stato, e Monologo con Rosetta. E Altalena, era il trio, era, e poi l'ho sfonciato io il trio, peggio per loro. Detto, no, peggio per solo Altalena che ha rotto le palle. Ok, davanti Luca. Ma che li portate, Tony? Sono usando un altro apparato, eh. Ho messo sul microfono e come stavo uscendo, tutto qua, vai. No, ho sentito il vuoto tipo che ci fosse un rumore strano dovuto al microfono, c'è un sottofondo di QRM, da. E via. Andava, da. Saluto anche a Roberto Di Anghero, vediamo un po' se mi ascolta, avanti Roberto. Roberto D'Alghero, ci sei ancora? No, avrebbe risposto poco fa, ma ha sentito, dai. L'altro chi è là? Sono dalle 4 in piedi, sono andato a fare un bel po' di lumache, ne ho trovato tra lumache e lumacconi 5 kg, forse 6 kg. Ah, per quello dovevi alzarti presto, Luca. Invece ti avevano chiesto se dovevi andare a pescare ieri. Io praticamente mi stavo guardando un film, poi quando c'era la pubblicità mi ascoltavo, che ne so, 3 minuti di baracchino e poi ritornavo al film ieri, capito? Abbiamo fatto non so quanti chilometri a piedi, mamma mia. Vabbè. Una bella passeggiata, eh. Già ci escono un po' di mangiati di lumaca, a voglia. Fatto nemmeno. E poi ho detto 5 secchini tra lumaca e lumacco, forse anche di più. Buono, buono, falle spurgare bene, sennò ti piglia la cuccia a voi. E beh, certo, una settimana. Così è venerdì, fai a sabato prossimo. Capo. Poi Marco lì. Eia, dimmi. Mi ricordo un particolare. È capitato in un giorno sbagliato, nel punto sbagliato Altalena. Ti spiego, una domenica mattina io mi trovavo via Alessandro Manzoni, a fianco al cuore immacolato a Monterosello. Passa questa macchina bianca, fea, vicia, pacca redai, con la crema, e dentro c'è questo anziano. E io stavo parlando con Massimo Bud Spencer, CB. Si ferma questo anziano e mi fa Massimo, prima di fermarsi, cazzo mia Altalena, Altalena. Scusate, mi fa Massimo, mi dica, sto cercando via Alessandro Manzoni, e Massimo gli fa, allora questo è via Alessandro Manzoni, Massimo Bud Spencer, abita lì e sono io, a voi c'è la prima e fuggito. Mamma mia, che bei tempi però. C'erano casini, c'erano anche bisticci, mi ricordo anche bisticciavano tra donne, sai, le mogli dei CP, quelle che arrivavano forti, no? Che avevano posizioni anche ogni tanto tra di loro, chiligani, mamma mia. Però era divertente, dai. Certo, c'erano portanti, non trovavi un canale libero, e se lo trovavi ti seguiva la portante o ti seguiva Paoletto. Era un ambulotto, però. Vabbè, e comunque è stata la storia. Poi sono arrivati i cellulari, addio, poi con le chat, con i computer, addio proprio del tutto. E altri tempi, dai. Comunque sono contento che abbiamo conosciuto quel periodo, dei baracchini e tutto. Allora, riepilogo, Riccardo, vediamo se c'è ancora Riccardo, Luca c'era, ma poi anche un altro aveva fatto break, chi era? Io ero, vi dimenticate sempre di me, ve ne abusate perché sono piccolo e nero. Natalino. Natali, tu devi fare più prepotente, tu sei troppo buono, troppo riservato, devi fare prepotenza 27. Io la prepotenza la lascio agli altri. Tu vuole ascoltare e poi così domani lo fa anche lui, capitolo Marcolino. Peccato che Natalino un po'. Cioè prima aveva una bella stazione. Adesso vabbè, purtroppo poi ne avevamo parlato e io quando ero andato a Porto Torres con l'antenna veicolare ed ero all'ancora, presente l'ancora, no? Dove sopra Balai, no? Fermo in macchina e avevo notato una differenza abissale tra i segnali, che ne so, di Claudio, di Roberto, di Gianni Ropirum e quello di Natalino. Era abissale. è tipo Claudio Santiago 8, Gianni 8, Roberto Quadrato 7 o 7 e mezzo, e Natalino arrivava a 0, 0 Radio 2. È molto molto sacrificata la posizione, poi sai cos'è, con questi omologati più di 4 watt non puoi avere, e quindi è doppiamente sacrificato Natalino. 3 watt, da 3 watt, non dà manco i 4 watt dichiarati, perché io ho il wattmetro qua e mi dà 3 watt. Sì, alla fine poi non sono mai reali i 4 watt, forse... Ma sì, non li dà, non li dà. Guarda, con questo sto usando adesso il baracchino, mi dà 2,5 watt spaccati, pensa un po'. 2,5 hai detto? O 3,5? Mi il disturbatore, mi. Qualche due si è messo sul canale 11, vabbè, questo è un baracchino da 13, gli piace un po' di splatter, la mazza gliene varia. 3,5 ha detto Tonino, dai. Infatti il segnale forse di solito sei 9 più 15, che ricordi, adesso sei tra il 9,10 e il 9,15, una via di mezzo. Vediamo se Riccardo è rientrato. Riccardo. Oh, comunque dai, è già tardi, io devo chiudere che devo uscire, che devo fare cosa. Non pensavo che fosse già oltre mezzogiorno. Ci sentiamo, ciao Marco Lì, ciao Natalino, ciao Luca e eventuali ascoltoni. Ciao ciao. Ehi, un'ultima cosa Tony, sai se Rosetta è ancora vivente? Guarda, questo non te lo so dire, non lo so, ma forse so che non c'è più. Renata non l'ho più sentita, ma è ancora viva, mi auguro sì. Di Rosetta non lo so, guarda. So che abitavo via Parigi, però, perché ci sono altre volte che non so a trovarla. Il resto non te lo so dire. E mi ricordo che Renata aveva la pupa piccolina, piccolina, piangeva perché aveva perso il ciuccetto. Io sono uscito di notte, gliel'ho portato a trovarci a Simoli, ho comprato il ciuccetto e gliel'ho portato. Questo però ricordo e mi ha ringraziato. Mille grazie, ragazzi. Eia, eia. Va bene, dai, ci sentiamo Tonino, buon tutto, non so cosa fare, ti rilancio per Natalino, per i saluti. E ciao Tonino, alle prossime, io lo stesso mi sgancio in quanto devo cucinare. Ciao a tutti, ciao. Eia, buona sganciata, buona mangiata e buon tutto, dai, ci sentiamo. Ciao a tutti. Rientrato, scusate, ciao Natale. Scappati, mi avevo sentito, che fine avete fatto?